Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Oggi 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer, la forma più comune di demenza. La malattia colpisce la memoria e le funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare, di pensare, ma può causare anche altri problemi, fra cui stati di confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale. Oggi vogliamo fare il punto su prevenzione, diagnosi e ricerca. In linea con noi il dottor Renzo Rozzini, direttore del Dipartimento di Geriatria dell'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia. Dottor Rozzini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dottore, che cosa succede nel cervello di chi si ammala di Alzheimer? Allora, nel cervello di chi si ammala di malattia di Alzheimer si depositano in aree specifiche delle sostanze che si chiamano beta-amiloide che producono, quando si sono depositate, una infiammazione che porta a una degenerazione. Significa che le cellule del cervello che degenerano poi muoiono e quindi non riescono più a svolgere la funzione per la quale erano programmate. Qual è il filone di ricerca più promettente, dottor Rozzini? Ma a mio avviso è questo, appunto, quello di riuscire a individuare quali sono le cause e per poi poter fare dei trattamenti, come si sta facendo ora, stanno sperimentando dei farmaci che impediscono la produzione di queste proteine, oppure sono in grado di limitarne i danni quando si depositano nel cervello e potrebbero rappresentare uno degli aspetti più importanti nei trattamenti. Ma è interessantissima anche l'altro aspetto, che è quello dell'identificazione che la malattia non ha una linea, una traiettoria autonoma, ma è condizionata anche da altri fattori che sono gli stili di vita, che sono le malattie concomitanti, che sono condizioni di tipo favorente, e qui può fare non solo la medicina, ma molto può fare lo stile di vita. Grazie dottor Rozzini per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buona giornata a voi. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre video interviste. Oggi indicazioni e suggerimenti di prevenzione del diabete di tipo 2. Buona giornata. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.